9. Il campanello. Il giorno 21 marzo, dedicato a San Benedetto, presi l'abito di educanda. Le monache non eran sì sollecitate di vestirmi prima per rispetto alla morte di mio padre, di cui io portavo tuttavia il lutto. Semplice fu la cerimonia della vestizione. La tunica, riposta in una guantiera, fu recata in chiesa e deposta sull'altare di San Benedetto. Ivi, il noto canonico, disse la messa, la benedisse ed io l'indossai. Era di lana nera ordinaria, con maniche strette sino al polso, con un piccolo scapolare pendente dalle spalle, un grembiale di mussola bianca e al collo un fazzoletto della stessa stoffa. I capelli passavano sopra le orecchie ed erano sostenuti da un pettine. Questa acconciatura del capo e le pesanti scarpe furono le cose che mi arrecarono maggior dispiacere e disagio. Finita la messa, il canonico salì al parlatorio per contemplarmi in quella nuova foggia e me ne rivolse le sue congratulazioni. Ma gli argomenti del confessore non riuscivano a dissuadermi dal disegno di lasciare il convento e le sue assiduità, ripetute 3 o 4 volte la settimana, lungi dall'ispirarmi affetto per la vita monastica, non facevano che aggiungere fastidio alla mia naturale ripugnanza per quello stato. Non tralasciava io pertanto di scrivere indefessamente a mia madre, supplicandola a voler mantenere la sua promessa, ma le risposte di lei rispondevano debolmente alle mie aspettative. Nel mese di marzo mi disse d'aver malata una sua figliuola. In quello di aprile, riferendosi alla morte della zia Lucrezia, poco innanzi avvenuta, mi faceva osservare che non conveniva lasciare così presto l'altra zia badessa. Nel mese di maggio trascurava di rispondermi e dal fine in quello di giugno io cadeva inferma. Il generale Saluzzi, Giuseppina e una mia sorella maggiore che allora trovavasi in Napoli, con unanime risentimento notarono a mia madre tale trascuratezza. Ella rispose non poter venire personalmente, ma però trovarsi in Napoli una dama messinese, sua intima amica, la quale, dovendo fra poco rimpatriare, volentieri si sarebbe presa l'incarico di accompagnarmi per viaggio. Sarebbe poi stata sua cura di prendermi da Messina a tempo debito. Il ricevimento di quella lettera mi colmò di gioia. Ritornare in Reggio, recuperare il sommo bene della libertà, rivedervi Domenico. Mi risovvenni dal sospiro d'Alighieri. Libertà vo cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Il mio confessore, avvedutosi di tale sentimento, lo dichiarò peccaminoso. Le suore mi dissero ingrata verso Dio, verso San Benedetto, verso loro, e per quasi un mese che quella dama messinese in Napoli si trattenne, non fecero che sfegatarsi a squadernarmi assurde storielle intorno a persone cadute nella dannazione per non aver dato ascolto alla voce del Signore che le chiamava al chiostro, per esempio di un bambino di legno rimasto col piedino alzato, in quell'atto stesso che dava un calcio a MC, educanda uscita del monastero. Di talune percosse date dalla statuetta di San Benedetto alla lastra della sua nicchia, di apparizioni di anime del purgatorio, di streghe, di vampiri, di demoni, tutte cose quanto spropositate, altrettanto nuove per me. Tutt'oddì, tormentata da simili fandonie, proprie piuttosto du bon vieux temps delle crociate che di questo nostro, e non meno atte a snaturare la mente che a deturpare la coscienza e il cuore, pregai il cielo che sana volesse conservarmi la povera ragione. Frattanto, il tempo della mia liberazione si approssimava. 2 giorni prima di quello destinato all'uscita, mi fu recata una lettera. L'aprii, era anonima, e cominciava con questa frase: leggetela ai piedi del crocifisso. L'autore diceva sì. Persona cui l'anima mia pericolante spirava pietà. La risoluzione di ripudiare lo stato monastico era, a parer suo, opera di Satanasso, il quale era si preso l'impegno di attirarmi seco nell'inferno per la mia lunga renitenza. Iddio mi abbandonava agli artigli del demonio, essere nulla meno tempo ancora di fare ammenda del passato rimanendo nel chiostro. Concludeva che nel mettere il piede fuori del monastero sarei stata sospinta da mano invisibile, al quale segno del divino intervento, se non ne fossi stata dissuasa, egli, lo scrivente, nel dì dell'estremo giudizio sarebbe stato il mio inesorabile accusatore innanzi a Dio. Esaminai quella scrittura. Non mi parve totalmente nuova. Esplorai le mie carte, non vi trovai alcun carattere somigliante, pure era ben sicura di averla altre volte veduta. Domandai alla portinaia chi avesse recato quel foglio. Mi rispose un tale, ignoto a me, che dopo di averlo posto nella ruota, frettoloso se ne partì. In un angolo dell'arcato corridoio eravi una cappelletta dedicata a Sant'Antimo, santo di origine basiliana. Passandovi quel giorno stesso in compagnia di mia zia, vi osservai una preghiera manoscritta su una tavoletta appesa al muro. Mi approssimo, la guardo. Il carattere era perfettamente simile a quello della lettera anonima ed appunto in quel luogo lo aveva altra volta veduto. Ricondussi mia zia al coro e volai in cerca della conversa a cui la cappelletta apparteneva. Seppi che la preghiera era le stata scritta da quel pretino che al vedermi passare per il parlatorio soleva cinguettare: «Pscara, vieni qua!» Aveva intanto disposto mia madre che, uscendo del monastero, mi portassi in casa della sorella maggiore e colà attendessi la signora che doveva accompagnarmi. A cagione dei fantastici ragionamenti che i preti e le monache mi tenevano tutto il giorno, i miei sonni erano spesso turbati da apparizioni spaventose di spettri, di demoni, di sante reliquie. La notte che precedeva all'uscita, la commozione mi fece prendere riposo tardi, tardissimo. Era dunque fra la veglia e il sonno allorché parve mi udire all'orecchio il tintinnio di un campanello. Mi desto incontinente, schiudo gli occhi, tendo l'orecchio, sono circondata dal solito silenzio. Di là a poco raccontai ad una monaca l'effetto di quell'allucinazione. Ella si mise a piangere, a farsi il segno della croce, a strillare: «Miracolo! Miracolo!» «E chi può aver operato il miracolo?» le domandai. «Ci vuol tanto a capirlo! È il campanello di San Benedetto che ti chiama!» Mezz'ora dopo il convento era sottosopra. Le monache, le converse, le educande non ragionavano d'altro che del miracolo e già parlavasi di una messa destinata a perpetuarne la memoria negli annali e nei fasti del chiostro. Ma, nonostante il misterioso tintinnio, restai ferma nella mia deliberazione. Allora fissata, abbracciai teneramente la vecchia zia, valicai esultante la soglia del monastero e dopo di aver visitato Giuseppina, che non aveva veduta da qualche tempo per la sua infermità, mi recai in casa dell'altra sorella, ove mi trattenni 10 giorni aspettando l'ora della partenza. Ma era scritto che il mio riscatto esser dovesse di breve durata. In questo mentre io riceveva da Reggio 2 lettere. Erano delle altre 2 sorelle, colà maritate, che per urgenze a tutta possa mi consigliavano di restituirmi all'abbandonato Cenobio. Erano poi dolorosissime le ragioni che le inducevano a darmi tale consiglio. Mia madre era in procinto di passare a seconde nozze. Domenico, posto in oblio l'amor mio e impassibile alle mie sventure, erasi dedicato ad un'altra donna. Del resto io correva il rischio di passare da un monastero della capitale in uno di quelli della provincia. Queste infaute notizie mi atterrirono. Scaricavasi d'un sol tratto sul capo mio tutto quanto il peso dell'orfanezza. Dopo d'aver lungamente ponderate le condizioni della critica situazione in cui quelle novelle mi ponevano, mi spinsi, benché a malincuore, a domandare se voleva il cognato ritenermi presso di sé, insino a che fosse piaciuto al Signore di procurarmi altro rifugio, e il cognato gentilmente vi consentì. Deliberai allora che quando quella dama di Messina fosse venuta a prendermi seco lei, le direi che si partisse sola. Così feci, ed ella se ne partì senza di me. Ma da lì a 8 giorni, con una lettera fulminante, mia madre protestava di non voler sopportare in pace la mia disubbidienza. Ella erasi trasferita a Messina per ricevermi e non avendomi incontrata, come s'aspettava, era montata in furia. Non basta questo. Il ministro di polizia citava nello stesso tempo mio cognato per indurlo a farmi subito partire conforme al volere di mia madre. «Cara cognata», mi disse quest'uomo da bene dopo l'avvertimento ricevuto, «vi ho offerta di buon grado l'ospitalità in mia casa e avrei seguitato a ritenervi con piacere se vostra madre non ne mostrasse rincrescimento. Ora, nel modo che le cose vanno, mi spiace dirvi che io non posso resistere agli ordini di mia suocera». Io era recisamente licenziata. Che fare? Dove andare? A chi ricorrere? Mi trovavo in un bivio terribile, un carcere a destra, un altro a sinistra, ed ogni intorno l'abbandono e la desolazione. Dio mio, dicevo io a me stessa, non potendo contenere le lacrime, che mai sarà di me, priva come mi trovo di mezzi, priva di ogni appoggio, priva perfino della mia volontà. Se un destino crudele muove tutto a congiura contro di me, non va almeno qualche legge pietosa che mi difenda? Fu suonato all'uscio. Era un amico di casa settuagenario, curvato sotto il peso degli anni. All'udir l'accaduto, quel buon vecchio mi esortò a ritornare nel monastero finché, diceva, fosse dissipata la tempesta che addensavansi sul mio capo. Più tardi, poi, si sarebbe cercato di rappattumare la madre con me. A questo consiglio si conformarono i zian Dio e la sorella e il cognato ed altre persone familiari, né, a dire il vero, scorgeva neppure io fuori di quello altro schermo che mi campasse dalla disperazione. Non sapendo dunque a quale miglior santo rivolgermi, secondo il detto comune, mi feci il dopopranzo ricondurre al convento. Ivi, chiamata la zia in disparte, le dissi volermi novellamente chiudere per pochi altri mesi ancora, al che ella rispose che sopra tale risoluzione faceva d'uopo consultare la disposizione delle monache. Poco dopo, convocate queste nel parlatorio e udita per bocca della badessa la mia domanda, risposero che mi avrebbero accolta volentieri nello stabilimento se dichiarava in quell'istante medesimo di rientrarvi non provvisoriamente ma per farmi religiosa. Nel caso contrario, dichiaravano di volermi chiudere le porte. Quale orribile alternativa! Mia sorella, vedendomi sulle spine, notando massimamente l'esitazione mia nel rispondere, mi esortò sottovoce a dire per il momento di sì, che poi rientrata non mi avrebbero di leggeri respinta. Me ne persuasi e risposi sommessamente che rientrava col disegno di farmi monaca. Affermatelo pure ad alta voce, mi disse la badessa. Siete al fine determinata di dare i voti? Il cuore mi batteva forte, il capo mi girava, credeva di venir meno. Chiesi di una seggiola. Tersi con la pezzuola il freddo sudore che mi colava dalla fronte e con voce di agonizzante risposi: sì. Il dado era tratto, fatale sì. Non appena ebbi pronunziata l'affermativa, uno scoppio d'acclamazioni e di festose grida mi percosse l'udito. Le monache tutte proruppero di comune accordo in proteste tendenti ad assodare che la mia conversione era effetto manifesto del campanello di San Benedetto, da me stessa inteso qualche ora prima della mia uscita. Per lo che, con tutta fretta, mandarono uno stuolo di converse sui campanili per suonare la festa. Nell'udire a quell'ora insolita le campane, i vicini fecero domandare che cosa fosse successo alle monache e queste divulgarono largamente che la nipote della badessa erasi per superiore ispirazione dichiarata religiosa. Perduta d'animo, confusa dalle inaspettate combinazioni, soperchiata, io tremava a guisa di foglia cadente al vento d'autunno. Dato pertanto l'impegno di chiudermi il giorno appresso, me ne tornai in casa della sorella, immersa nella più cupa costernazione. Ella pure mostravasi molto dolente dell'andamento che l'affare aveva preso all'improvviso. Il suono funesto delle campane rintronò al mio orecchio per tutta la notte, mi pentii 100 volte di aver detto quel sì e accusai me stessa di fiacchezza. Ma guai a chi è trascinato dalla fatalità. Alle 10 della mattina mi avviava al convento, alle porte del quale parecchie persone familiari mi attendevano. Fui ricevuta con nuova scampanata festa e con lo sparo dei mortaletti, alla cui esplosione una folla immensa di gente si radunò. Per tutta quella giornata d'altro non si ragionò che del miracoloso campanello e della mia prossima vestizione. Il canonico gongolava di gioia, le suore ne esultavano, era un andirivieni continuo nella chiesa e di preti e di confessori. Il cardinale Caracciolo e il vicario vennero pure essi a congratularsi, meco della mia risoluzione. E la sera un lauto trattamento di gelati e di pasticceria fu offerto dalla mia zia alla comunità. Insomma, per vincolarmi nei lacci dove era incappata, in modo da non potermene più disimpegnare, i preti e le suore strombazzarono il prodigio di San Benedetto e l'atto della mia conversione con ogni mezzo possibile di pubblicità. a sollievo delle solitarie pene che m'attendevano, m'era provveduta di alcuni volumi che cacciai nel fondo del baule. Eranvi fra quelli la Bibbia, il manuale di Epitteto e le confessioni di Sant'Agostino. Aveva pur cercato delle consolazioni di Boezio, ma non mi venne fatto di rinvenirle. Mi fu bensì da mano amica favorito un altro libro, il cui titolo pareva alla mia situazione particolarmente confacevole. Era La solitudine di Zimmermann. Da quello scritto mi riprometteva una novella vena di conforti e però mi sapeva 1000 anni di cominciarne la lettura. Come, dopo il trattamento dei gelati, si furono le monache ritirate, preso a mia volta commiato dalla zia, mi affrettai di tirar fuori del baule il sospirato volume. Con quale palpitante avidità ne divorai al lume della lucerna le prime pagine. La storica facondia, lo stile animato e leggiadro, la soave malinconia, il movimento dei sentimenti e delle passioni con che l'autore studiasi di infondere l'amore della solitudine a chi lo legge, mi rapirono fin dal principio in una sfera sconosciuta di poesia e ringraziai la provvidenza d'avermi dato a compagno un maestro capace di poetizzare le amarezze dell'esilio, di rendermi affezionata alle mie catene, di temprare il mio cuore ribelle all'uniformità dell'inezia, alla perpetua monotonia del quietismo. Ma di repente un triste pensiero mi assalì. Cotesto filosofo che sugli incanti della solitudine a larga mano, profonde i fiori dell'eloquenza, era egli infatti il mio compagno di prigionia? Era egli stato per forza superiore e ineluttabile costretto al par di me a consumare il suicidio della propria volontà? Egli, che con tanto ardore decanta i vantaggi del ritiro, conosce forse come sa di morte la solitudine, quando priva è d'affetti, di vincoli, di memorie, d'aspirazioni? La solitudine, sfrondata da ogni germoglio d'amore, impastoiata da 1000 pratiche, l'una più servile dell'altra, sentenziata a perenne ed ignobile sterilità, ricaddi più che mai nell'abbattimento. Una mano di ferro m'adunghiò alla gola, credetti di restarne soffocata. L'orologio del vicinato aveva già suonato il tocco dopo la mezzanotte. Richiusi il libro, spensi il lume e spalancai la finestra in cerca d'aria. Era il cielo velato da foschi nuvoloni, vaganti a seconda del vento. All'estremo orizzonte qualche stella romita avventurava un raggio offuscato dalla caligine e la luna, involta pur essa nella nebbia, batteva con incerta luce le mura del monastero. Alcune gocce di pioggia, che di tratto in tratto scrosciavano sul lastrico, interrompevano per un istante il vasto silenzio e poi tutto rientrava nella muta solitudine. Mi venne in mente di scrivere a mia madre una lettera grondante di lacrime. Riaccesi la lucerna, ne gettai lo sbozzo sulla carta, ma troppo agitato, giudicando lo stile, lo stracciai subito. Non sarebbe meglio, domandai a me stessa, confidare alla zia le mie angustie. Ah, ma ella dorme a quest'ora. La sveglierò. Per giungere alla sua stanza bisognava attraversare un tenebroso corridoio. Bussai all'uscio. Nessuno risponde. Torno a bussare. La conversa riconosce la mia voce ed apre sgomenta da tale visita. Nel vedermi a quell'ora e sì fortemente conturbata, anche la badessa trasecolò. Dopo aver fatto uscire la conversa, «Cara zia», le dissi, contenendo appena la commozione che mi agitava. «Duolmi assai di recarvi tante e sì gravi molestie, ma il tempo stringe, gli affari miei camminano con soverchia celerità, poiché non voglio lasciarmi sorprendere dagli eventi al di là del dovere». L'informai allora minutamente del concorso di circostanze che mi avevano indotta a ritornare nel monastero, non senza la riserva di un imminente e definitivo riscatto, e conclusi il ragionamento dichiarandole che io provava per lo stato monastico la più ferma e insuperabile ripugnanza. La povera vecchia diè tosto nel pianto e, fattosi delle mani velo, esclamò: «Lassa! Quale vergogna attendeva la mia vecchiaia e l'ultimo mio badessato! Che mai diranno le monache? Che dirà il cardinale? Che dirà il vicario? Che dirà il mondo intero? Chiameranno pazzerella te e me più pazza ancora per averti persuasa a rientrare. Oh, e la reputazione del convento e il campanello di San Benedetto che ha suonato! E le gazzette che ne parleranno, oh, quale ampia materia di scandalo, quale argomento di favole presso gli increduli della città. A queste riflessioni la poveretta si diede a piangere e singhiozzare dirottamente. Il turbamento di quell'ottuagenaria, la sua somiglianza col mio adorato padre, al quale io non aveva cagionato mai il minimo cruccio, queste cose mi scossero. Veggendo che ella non si dava né pace né tregua e andava ripetendo lamentevolmente: ahimè, ahimè, quale tremenda sventura, quale vergogna! Le presi una mano fra le mie e dando allora libero sfogo al dolore: amata zia, le dissi, ricoricatevi e datevi pure pace. Contro il destino mio non mi rivolterò più. Alzò la testa, mi guardò fissa, io senza prender fiato: sì, le soggiunsi, mi farò monaca, mi costerà la vita, una disgraziata di meno, ma non amareggerò per certo gli ultimi giorni di vita della sorella di mio padre. Non potei andare oltre, perché la foga dei singhiozzi mi soffocò le parole. Restammo entrambi abbracciate per qualche tempo senza dir motto. Alfine, riprendendo ella il discorso e sul mio capo poggiando la santa reliquia che pendeva al di lei collo: sta tranquilla, figlia mia, mi disse, Iddio e il nostro patriarca ti sosterranno in questo sacrificio. Pregherà dalla mattina alla sera per farti venire la vocazione che ti manca e sarò esaudita. Volle da me la promessa di non ripetere a chicchessia gli incidenti di quella notturna conferenza e lo promisi. Il mio sacrificio da quel momento era consumato. Mi considerai una vittima. L'ingresso del giornalismo è interdetto nel convento. Ciò non di meno, tiratami il canonico in disparte la seguente mattina, mi pose sott'occhio due giornali, umidi ancora dalla stampa, ove davasi al pubblico la notizia della mia deliberazione. Dicevasi in uno di quei fogli: ci facciamo solleciti di partecipare a un fatto che a devoti di ogni classe recherà piacere. Una delle figlie del defunto e compianto maresciallo Caracciolo, la signorina Enrichetta dei Principi di Forino, giovane di rara pietà, si è determinata di ripudiare le vanità del mondo per prendere il velo del monastero di San Gregorio. Portava l'altro diario, organo ben noto della pretesca consorteria, il campanello di San Benedetto ha tornato a risuonare poc'anzi, e questa volta per conquistare all'angelica regola benedettina un'altra Caracciolo in età tenera e discendente in linea diretta da San Francesco dello stesso cognome. Questa giovinetta, che somma riluttanza aveva mostrato nell'abbracciare lo stato monastico, ora, per essere stata evocata durante il sonno dal suddetto miracoloso campanello, ha formalmente espressa la sua intenzione di farsi monaca. Empi e miscredenti, favete linguis animisque. Intanto mia madre non mi scriveva. Le indirizzai una lettera, un'altra ne scrisse mia zia per annunziarle la mia risoluzione di farmi monaca. Rispose non volerlo affatto permettere e per molti mesi oppose la più ostinata resistenza. Era suo intendimento, diceva, di maritarmi a persona di suo aggradimento, né mi avrebbe ritenuta nel chiostro, se non infino a che tale opportunità si presentasse. Se non che, soggiunse mia zia, non poteva ella opporsi ai decreti della divinità. Questi decreti, peraltro, non potevano effettuarsi immediatamente. Al mese di agosto del 1840 non aveva ancora raggiunta l'età disciplinare per vestirmi monaca, compiva 20 anni nel 1841. Si dovette perciò attendere sino al mese d'ottobre di quest'ultimo anno, ossia un intervallo di 20 mesi dopo il mio primo ingresso nel chiostro. Questo tempo fu, dalla comunità, dedicato ad apparecchiare a spese mie i confetti per il giorno della festa. Frattanto mia zia, che per un intero decennio aveva esercitato le funzioni di badessa, fu surrogata da un'altra Caracciolo, donna piuttosto burbera e rigorosa. Questo rigore, contrapposto alla soverchia affabilità di mia zia, fece sì che malcontente ne uscissero tutte le monache. 40 giorni prima della mia vestizione fu deciso, per contentare mia madre, che io passassi questo spazio di tempo presso di lei. Però, prima di uscire, mi fu fatto sborsare per le spese della funzione ducati 700. E qui cade a concio di notare che l'egregio generale Saluzzi mantenne la sua promessa, donandomi ducati 1000. In questo mentre mia madre, reduce dalla Calabria, prese alloggio in casa di Giuseppina, di conserva con le mie due sorelline. Tanto ella che gli altri parenti, nel notare la mia rassegnazione ad un male che ormai sembravami inevitabile, reputarono vera e spontanea la mia vocazione. Dal canto mio, dovendo rinunziare al mondo per sempre e volendo evitare ulteriori rammarichi, schivai per quello spazio di tempo e teatro e passeggio e società. Tentai soltanto un giorno di cantare sul pianoforte un'arietta popolare, quella che tanto era piaciuta altra volta a Domenico, ma la commozione che mi sorprese, ma i rimpianti amari che nel cuore mi ripullularono, diedero ai miei nervi sì gagliarda scossa che da allora in poi feci divorzio anche con la musica, né suonai più che l'organo della chiesa. Più di una volta mi venne il pensiero di aprire il mio cuore al generale, mio secondo padre, e chiedergli aiuto, ma la parola data mi chiudeva le labbra. Egli aveva già sborsato il denaro, del quale molta parte erasi presa. Ora, volendo pur mancare all'impegno solenne, fermato con la zia e con le monache, poteva io più ritrattarmene senza far trista figura davanti al benefattore? Non vi era alcuno scampo plausibile. Doveva assolutamente chiudere gli occhi e abbandonarmi alla discrezione della fatalità. Spuntò il critico giorno. Una folla di parenti e di amici affluì fin dal mattino nella sala di mio cognato. Gli uomini discorrevano allegramente, le donne chiassavano. Le zittelle si erano impadronite del pianoforte. Io sola era mesta con in bocca l'amarezza dell'assenzio. A 10 ore fui chiamata all'allestimento. Mi inghirlandarono di fiori gemmati a guisa di sposa, mi fecero indossare un abito sontuoso di velo bianco e al capo mi attaccarono un altro velo dello stesso colore, scendente sino ai piedi. 4 dame assistettero all'acconciatura, 2 altre dovevano accompagnarmi, la duchessa di Corigliano e la principessa di Castagnetto. Conformandosi alla consuetudine, queste dame cominciarono dal condurmi a diversi monasteri onde farmi vedere dalle altre monache. Le seguitai automaticamente, muta d'accento, col pensiero assente. Mi scossi solo allorché, seduta nella porteria del monastero di Santa Patrizia, accanto all'altra zia benedettina, vidi entrare frettolosi e anelanti 2 chierici che gridarono: «Ma signore, venite presto a San Gregorio Armeno, il pontificale è finito, non si attende che la monaca». Una pugnalata al cuore non ha effetto diverso di quello che provai da tale chiamata. Un tremito generale si impossessò delle mie membra e divenni livida al par di un cadavere. La prima ad alzarsi fu la duchessa Corigliano. Compressi la mano sul cuore, mi levai a stento e baciai quella vecchia zia che mi disse lacrimando: «È questo l'ultimo nostro bacio? Addio, figlia mia, ci rivedremo in cielo». La principessa, venutami più dappresso, mi guardò in volto. «Fermatevi, duchessa», disse alla Corigliano, «non vedete che la monachella si sviene?» Infatti, appuntellata alla spalliera della seggiola, io vacillava, pronta a cadere. Mi posero a sedere e chiesero un bicchier d'acqua, dal che, refrigerata un poco, ripresi lene e mi rialzai. «Scommetto che non siete contenta di farvi monaca», mi disse per via la principessa. «Al contrario», risposi, inghiottendo un sospiro traditore, «ne sono contentissima». Avanzava frattanto la carrozza e avanzando entrava nel quartiere di San Lorenzo. Approssimatici alla città dolente, misi il capo allo sportello, cercando con lacerante curiosità le persiane delle finestre, le cancellate di legno, le inferriate e gli altri ripari del monastero. Alla vista del sepolcro che stava lì per ingoiarmi, non so come, spinta da un istintivo impulso, non mi sia rovesciata dalla carrozza in mezzo alla strada. Mi risostenne l'intima autorità dell'amor proprio. Quanto mi avvicinava a San Gregorio Armeno, tanto più distinto facevasi il suono delle campane. Ogni tocco era suono funereo nell'animo mio. All'angolo della strada, il confuso cicalare della moltitudine, accorsa da ogni parte, lo sparo dei mortaletti, le acclamazioni delle donnicciuole ai balconi e la banda degli svizzeri finirono di impietrirmi. Io ho provate le estreme sensazioni del suppliziato. Al portone della chiesa fui ricevuta da una processione di preti con la croce in alto. 2 altre dame si posero al mio fianco. la principessa di Montemiletto e la marchesa Messanella. Il prete con la croce in mano camminava innanzi, gli altri formavano due ale. La chiesa era parata con eleganza, illuminata con profusione e divisa nel mezzo da uno steccato bianco e rosso alla cui dritta stanziavano le signore che erano state invitate e ricevute da mia madre. E a sinistra stavano i cavalieri ricevuti da mio cugino, il principe Forino. Di quell'assemblea numerosa, delle variopinte decorazioni, di quell'oceano di luce altro non vidi che una massa informe e confusa. Giunta che fui al mezzo del tempio, mi fecero inginocchiare e mi presentarono una piccola croce d'argento e una candela accesa. Dovetti poggiare la prima sul petto, tenendola con la sinistra e portare nella destra la fiaccola. Nel passare vicino alle signore, la mia sorellina Giulietta stese le mani per afferrarmi dal velo e gridò tanto alto da farsi sentire da tutti: «Non voglio! No, non voglio che tu vada a chiuderti!» Quella voce argentina attirò l'attenzione di ogni persona. Era la voce dell'innocenza che gridava alla barbarie. Mi volsi a quella parte. Una signora imbavagliava la bocca della fanciulla col fazzoletto. Mi corsero le lacrime agli occhi, asciutti fino a quel punto. Arrivai all'altare maggiore. Il vicario, che funzionava, essendo infermo il cardinale, stava seduto dal lato dell'epistola. Ivi, io e le dame rimanemmo per pochi minuti genuflesse, poi mi menarono al vicario e mi posero ginocchioni ai suoi piedi. Un prete, dalla cotta superbamente ricamata, presentògli un piccolo bacile d'argento con forbicette, con le quali mi recise una piccola ciocca di capelli. Mi rialzai allora e, fiancheggiata dallo stesso corteggio, preceduta dalla banda che suonava, uscii nuovamente della chiesa. Il tratto di strada che da questa mena alla porteria fu fatto da tutti a piedi in mezzo ad una fittissima calca di curiosi. Appena posi il piede sulla soglia della clausura, proruppi in uno di quei pianti sfrenati che non può forza umana contenere, e le monache a chiuder tosto le porte, ad internarmi sollecitamente, a dirmi in coro: «Non piangere, per carità, altrimenti diranno i secolari che non ci monachiamo per vocazione ma per forza. Zitto, zitto, per carità!» Scesi al comunichino. Il vicario, i canonici, i preti e gli invitati erano tutti affollati presso il cancello. Ivi, condotta in un angolo, fui per mano delle monache spogliata via via degli abiti di gala, del velo, della ghirlanda, dei guanti e perfino dei calzarini. Quando, in veste di lana nera, con la chioma scarmigliata, con gli occhi tumefatti dal pianto, mi accostai al portellino del comunichino, intesi tra la folla alcuni gemiti provocati dalla commozione. Chi mi deplorava, lo ignoro. Il vicario benedisse lo scapolare e, offertomelo di propria mano, me l'indossai. Quindi mi prosternai dinanzi alla badessa. M'avevano spogliata dell'abito secolare, dovevano pur togliermi la chioma. Le monache strinsero in una sola treccia i miei lunghi capelli e la badessa impugnò delle grandi forbici per reciderla, mentre un silenzio profondo regnava intorno. Una voce potente, uscita da mezzo i convitati, gridò: «Barbara, non tagliare i capelli a quella ragazza!» Tutti si volsero, bisbigliarono di un pazzo. Era un membro del Parlamento inglese. I preti imposero silenzio e le monache, le quali in altre simili funzioni avevano veduto dei protestanti, dissero alla superiora, che era rimasta con la mano sospesa, stringendo le forbici: «Tagliate! È un eretico!» La chioma cadde e presi il velo.